Io penso sia un atto assolutamente dovuto, credo la FIGC non potesse non intervenire, certamente è un fatto anche positivo, credo appunto che i valori della Costituzione dell'antifascismo non si fermano ai confini degli stadi, e che quello che è accaduto a Marzabotto è stata una grave offesa ai familiari delle vittime, alle stesse vittime dell'eccidio nazifascista, ci voleva una risposta su più piani, la FIGC doveva fare la sua parte e mi pare importante che questo procedimento si sia avviato. Credo anche che abbia pagato una forte mobilitazione di istituzioni, forze politiche e sociali, cittadini, come è accaduto anche nel caso recente di Budrio, un caso diverso ma diciamo che sta dentro un fenomeno di ritorno di estremismo di destra che a mio avviso bisogna contrastare, credo che questa mobilitazione non si debba interrompere. Tu appunto citavi il caso di Budrio e vedendo un po' in giro per l'Italia ci sono tanti altri casi purtroppo di rigurgiti fascisti, quali sono gli strumenti migliori per contrastarli? Certamente applicare le leggi che ci sono, perché a partire dalla Costituzione, apologia di fascismo, la ricostituzione del partito fascista sono reati e come tali vanno perseguiti. Rendere ancora più efficace la legislazione, penso nella prossima legislatura, a questo punto approvando la legge Fiano, che aggiorna gli strumenti che abbiamo anche al nuovo contesto della rete, delle forme di comunicazione che ci sono oggi. E accanto a questo però ancora più importante un grande lavoro sulla memoria, bisogna che le giovani generazioni sappiano quello che è accaduto allora, perché lì ci sono le ragioni per affrontare le sfide del futuro e per sapere il razzismo, l'intolleranza, la violenza che cosa portano, e quindi un lavoro per esempio sui luoghi della memoria. Noi nella legge di bilancio abbiamo inserito un finanziamento, anche un emendamento a cui anch'io ho sottoscritto, con cui ho lavorato con altri colleghi, per sostenere i luoghi della memoria come Marzabotto, Sant'Anna di Stastema, il Museo dei Fratelli Cervi e così via, e poi con un'iniziativa di tutte le forze politiche. Sull'antifascismo e sul richiamo alla Costituzione non si possono essere differenze tra le diverse forze politiche, perché queste sono la base della democrazia comune a tutti noi. Tornando al tema dello sport, questa non è la prima manifestazione di questo tipo che vediamo, insomma ha fatto molto discutere anche la questione dal parte della tifoseria laziale degli adesivi di Anna Frank. È un settore, quello dello sport, che merita di essere sensibilizzato su questi temi? Non c'è dubbio, questo è uno dei campi in cui ci sono appunto stati episodi come quelli ricordati, c'è un fenomeno ricorrente di presenza dell'estremismo di destra in diverse forme, appunto bene che la FIGC in questo caso si sia mossa così, perché appunto il mondo dello sport non è una realtà a parte, è nel nostro paese ed è chiamato a fare la sua parte per difendere i valori costituzionali che devono essere comuni all'intera comunità nazionale.